Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo gli anni 80 attraverso la musica e la storia. Oggi andiamo nel 1983. Per me è stato un anno interessante perché quell'anno ho intervistato uno degli uomini più potenti e popolari d'America, Henry Kissinger. Abbiamo parlato di moltissime cose, in particolare del caso Moro e delle Brigate Rosse. Dottor Kissinger, nel passare da protagonista a osservatore, che cosa cambia nel modo di giudicare gli avvenimenti politici e gli uomini? Quando si è protagonisti, i problemi si presentano e non occorre sceglierli. Quando si è osservatori, invece, bisogna scegliere. Un problema abbastanza importante per poter esaminare gli aspetti teorici. Quando si è invece protagonisti, si hanno sempre gli aspetti pratici da affrontare. Senta, ma come giudica il ruolo del Papa sullo scenario della grande politica mondiale? Io penso che questo Papa sia un grand'uomo. Simbolizza alcune delle forze spirituali dell'Ovest, al di là della Chiesa Cattolica, e rappresenta alcune forze spirituali di base. È una delle poche figure nel mondo con cui la gente si può identificare. Sono un grande ammiratore del Papa. Quando si analizzano i suoi discorsi, sono profondi e politicamente abili. Questa è una combinazione rara. Lei crede ai legami internazionali delle Brigate Rosse italiane? So che all'inizio le Brigate Rosse possono essere state addestrate in Cecoslovacchia e aver avuto contatti con i servizi segreti dell'Unione Sovietica. In questo momento ritengo che le Brigate Rosse si sostengano da sole e che non abbiano connessioni internazionali. Ecco, in Italia si è parlato molto dei suoi contrasti con Moro. Cosa c'era di vero? Beh, questo è ridicolo. Moro e io avevamo fondamentalmente ottimi rapporti. Il suo interesse principale era la politica interna e non estera, quindi non avevamo molto da dirci. Ci sono delle voci in Italia secondo cui io l'avrei ammonito contro un'apertura a sinistra e il compromesso storico. Non è vero, perché quando io ho conosciuto Moro era nel 74 e solo nel 77 è stato... Però anche la moglie e il figlio di Moro hanno parlato di difficili rapporti fra lei e Moro, dicendo che lei lo ha invitato più volte a stare attento. Ma stare attento a cosa? La signora Moro è profondamente sconvolta dalla morte di suo marito. Io non l'ho mai conosciuta. Io sono stato sempre contrario al cosiddetto compromesso storico. Ho parlato pubblicamente sull'argomento, ma è una follia. Le Brigate Rosse sono ostili agli Stati Uniti. Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Io non conosco nessuno negli Stati Uniti che abbia mai conosciuto un membro delle Brigate Rosse. E Moro è stato ucciso 2 anni dopo che io ho lasciato l'incarico. È un'accusa folle. Ecco, qual è l'uomo politico italiano che lei stima di più? Sembra strano, ma ho molto rispetto per Moro, anche se a volte non ero d'accordo con lui. Dottor Kissinger, lei è stato prima consigliere di Nixon, segretario di Stato con Nixon e con Ford. Con chi si è trovato meglio? Dal punto di vista umano era più facile avere a che fare con il presidente Ford. Era un uomo meno complicato. Quanto alla sostanza, ho avuto un ottimo rapporto con il presidente Nixon, che era molto coraggioso. Comprendeva bene gli affari internazionali. Senta, ma secondo lei, qual è stato il miglior presidente degli Stati Uniti nel dopoguerra? Il presidente Truman. Perché? Ha portato l'America dall'isolazionismo a una posizione internazionale e lo ha fatto con i migliori valori americani. Ma il racconto dell'83 fra storia e musica arriverà tra poco insieme a Franco Schipani e Alessandra Fiori, che adesso con Alessandra Cravetto fa il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Senti, oggi passiamo da Kissinger ad Obama, da Obama a Renzi e da Renzi alla moglie di Renzi, Agnese Landini. Ma l'hai vista che elegante che era la cena di gala a Washington? Elegantissima, chic. Posso dirlo io questa volta? Meravigliosa, l'hai detto benissimo, anche chic. Aveva questo vestito rosa cipria di Valentino quando è scesa dalla scaletta, meravigliosa. E alla sera con questo vestito lungo di pizzo, stupendo. Ma soprattutto, perché tanto io so dove vuoi andare, ovvero soprattutto sobria la professoressa. Brava, Landini, sì. Che da moglie di Renzi rimane se stessa e si tiene il cognome. Ma secondo te si tiene il cognome perché, come dire, non vuole mischiarsi troppo, vuole tenere una distanza? Ma lo sai che può darsi. Comunque, te lo ricordi il detto di Virginia Woolf? Quale? Lo attribuiscono a Virginia Woolf. Sì. Dietro un grande uomo c'è una grande donna. Ecco, sai che era la stessa cosa che pensavo quando ho guardato Michelle Obama. È enorme, è grandissima. Ma quanto sei acida, credetto. Quanto è alta, ma siete Michelle tutti Obama? Siete tutti così a Torino? No, non tutti. Pochi, ma buoni. Pochi, ma bravi, bravissimi. Ma senti, se dietro un grande uomo c'è una grande donna, dietro una grande donna, chi c'è? Bella domanda. Sai che non lo so. Comunque, sempre rimanendo in ambito americano, pensando a Hillary e Bill. Allora, dietro Hillary, che comunque è una grande donna che può piacere o non piacere, c'è stato un grande uomo, che era lui. Lui, no? Bill. Lei ha salvato lui, lui ha salvato lei. Poi adesso lei, forse, se vince, ha detto che lo prenderà in squadra. Insomma, e infatti lei si è tenuta molto stretta anche il cognome di Bill. È vero. Non Rodham, Clinton. È rimasta Clinton. È rimasto lì. Anche nei momenti più difficili. Però ti devo dire una cosa, lei e lui non fanno testo, perché loro sono una spa. In che senso? Non quello in cui pensi te, cioè non quella in cui tu vuoi fare i massaggi, no. Spa nel vero senso del termine, società per azioni, una vera coppia del terzo millennio. Ma beati loro. Senti, però, a parte i Clinton, che abbiamo capito che non fanno testo, non ci siamo ancora dato una risposta. Cioè, dietro Strano. Una grande donna, dietro a grandi donne come me, come c'è? Certo. Chi c'è? Senti, Gravetto, io però te lo volevo dire da un po' di tempo, posso? Sì. Te lo volevo dire, ma tu ti sei mai sentita parlare al telefono con quello che immagino, credo sia tuo marito? No, e allora? Allora, a parte il tonetto che ti parte come adesso, no, e allora? Hai un tonetto? Hai un tonetto. Posso farti un attimo? No. No, allora, hai preso i bambini? No? Vabbè, lo faccio io. Hai telefonato all'idraulico? No, vabbè, lo faccio io. Hai pagato la bolletta? No, vabbè, guarda, non lo fare proprio, perché tanto lo faccio io. Hai presente? Comunque il tonetto alla Cravetto ti viene benissimo. Ma sai quasi perché? Naturale. Ma sai perché? Perché siamo donne. E dietro certe donne, a volte, non c'è nessuno, perché gli uomini scappano. Senti, il mio non è ancora scappato, però invece pensando a te... Ah, cinissima! No? Neanche lo yogurt scaduto! Ma no, ma pensando a te che facevi me, che però in realtà eri anche un po' te... Un po'? Un pochino, però eri più me che te... Anche me! Ho trovato la risposta! Dietro una grande donna c'è una grande tata... O una grande nonna! Anche. Comunque... Una delle due! Diciamolo per una volta, perché va detto, ma quanto possiamo essere rompipalle, cioè tu tantissimo. Io ti voglio dire che certe volte, ascoltando le amiche, ho fatto questa grandissima prova di autoironia, ovvero ho detto, ma io sono così? Sì, sono così. E allora, cavolo, io mi lascerei. Infatti. Ecco, Gravetto, la tua acidità non fa che confermare il teorema, però occhio, perché proprio tu, Gravetto, stamattina mi dicevi una cosa incredibile. No, ho letto questa notizia che vanno letto in tante mamme. Allora, una mamma separata è stata condannata a pagare 30.000 euro perché parlava male dell'ex marito con i figli. E però è giusto, io sono d'accordo. Sì, sono d'accordo anch'io, perché insomma bisogna stare attenti. E lasciarli fuori. Però comunque, se proprio dovete insultarli o insultatevi o parlarne male, fatelo piano, piano. Bassa voce. Senti, Cravetto, ma se io ti dicessi una parola, facciamo questo un gioco di associazione con la Cravetto. Allora, se io ti dicessi chiocciola, a te cosa verrebbe in mente? Beh, la chiocciola è una mammala. Non ho capito. Se la chioccia è una mamma, la chiocciola è una mammala. Facilissimo. Che l'avete spiegato è anche peggio. Quindi te lo racconto io cos'è una chiocciola, perché per alcuni è l'at-et di internet. Di internet. Sì. Per molti altri invece è ancora una lumaca. Per me invece è una mammala. L'italiano perfetto non esiste e non è mai esistito. L'italiano cambia, perché cambia il modo in cui lo usiamo. A raccontarne le ultime trasformazioni è il linguista Giuseppe Antonelli, che nel suo ultimo libro, Un italiano vero, ricostruisce il passaggio dall'italiano all'italiano. dall'epistola all'email, SMS, WhatsApp, Twitter e post di ogni genere. Insomma, per la prima volta nella sua storia, l'italiano non è solo parlato, ma anche scritto quotidianamente dalla maggioranza degli italiani. Giuseppe Antonelli, i nativi digitali non scrivono ma digitano. Qual è la differenza sostanziale tra scrivere e digitare in termini di lingua? La differenza sostanziale è nella compiutezza dei testi che produciamo. Quando noi scriviamo messaggini facciamo sempre affidamento sulla risposta che arriverà dal nostro interlocutore, oppure aggiungiamo un pezzetto di frase ogni volta adesso con i nuovi sistemi. In altre parole, ci stiamo disabituando a un testo compiuto, un testo che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine. Questo succede anche in altri tipi di social network, pensiamo a Twitter, 140 caratteri, sì, è vero, però poi possiamo linkare, aggiungere quindi un intero film, un intero libro, ed è questo appoggiarsi sempre a qualcosa che è co-testo, quindi che è un altro pezzo di testo, che è contesto, quindi che sono video, immagini, suoni, che sta rendendo il digitale un'attività diversa dalla scrittura tradizionale. Da una parte ci sono i nativi digitali e dall'altra quelli che quando sentono parlare di chiocciola pensano ancora alle lumache, ma sono ancora molti? In realtà no, mai. La scrittura telematica riguarda una larghissima fetta della popolazione italiana e sta raggiungendo anche le persone non giovanissime che un tempo sembravano estranee a queste tecnologie. Non tutti però ne fanno un uso consapevole, questo riguarda in particolare i ragazzi, cioè quelli proprio per cui digitare è molto più comune che scrivere. Il problema infatti è che molti italiani dimostrano di non saper comprendere, queste sono statistiche internazionali degli ultimi anni, neanche un articolo di giornale, non di non saperlo leggere, di non capire fino in fondo cosa significa. Allora ecco che da questo punto di vista forse la lumaca era meglio della chiocciola, nel senso leggere con più lentezza e con più attenzione ci consente di comprendere meglio. La rapidità della comunicazione digitale tende a renderci più distratti. Quello che rischiamo di perdere è la capacità di argomentazione, di articolare un ragionamento, perché poi a questo serve il testo. Tu tra le altre cose dici che noi viviamo nell'acronimato. Puoi farci un esempio? Sì, gli esempi sarebbero tanti. Questa mania delle sigle sta anche via via cambiando il panorama intorno. Penso ad esempio alla gag, che un tempo era uno sketch, non era una sigla, ma adesso è diventata qualcosa che si fa in palestra. In palestra, certo. Gag, addominali, glutei, certo. Sì. E penso a sigle abbastanza buffe che si trovano per esempio nei documenti della Comunità Europea, c'è il POP, Programma Operativo Plurifondo, lo SCIC, Servizio Comune di Interpretazione e Conferenze. Ci sono anche gli emoticon, voglio dire le abbreviazioni negli SMS, il K che stava per il CH, la X per. Insomma, questi però stanno lasciando il posto a una scrittura fatta di emoticon. Allora, gli emoticon sono i geroglifici internazionali del futuro? Le abbreviazioni di cui tu parli sono obiettivamente passate di moda. Dico obiettivamente perché tutti i ragazzi e le ragazze con cui mi è capitato di parlare girando nelle scuole li considerano da sfigati. Dicono che ormai gli unici a usarli, gli ultimi, sono rimasti bimbi minchia. Scritto con la K. Con la K, invece però. No, le faccine sicuramente stanno prendendo il sopravvento. E sì, diciamo c'è un passaggio dal logos al logo da questo punto di vista. Tra i luoghi comuni che tu affronti e sfati, ce ne sono molti, che il congiuntivo sia morto, che la televisione insegni un italiano scorretto e semplificato. Ecco, ma qual è il luogo comune più comune di tutti, secondo te? Ma il pregiudizio principale è quello che la lingua sia soggetta a una continua corruzione. In altre parole, che il tempo non migliori ma peggiori lo stato di salute di una lingua. Siamo pieni di nostalgici dei bei tempi andati, no? Invece la realtà è esattamente quella opposta. Il cambiamento non è né positivo né negativo, nel senso che le lingue vive sono in continua evoluzione, altrimenti sarebbero appunto lingue morte. E il cambiamento è non solo salutare, ma molto spesso porta a un arricchimento. È chiaro che per tante cose nuove che arrivano, ogni tanto qualcuna vecchia se ne perde. E tu parli anche della lingua parruccona al proposito. Sì, della lingua parruccona o di quelli che chiamo gli esattismi. Penso a un'altra pagina di Calvino, quella in cui lui prende in giro la lingua burocratica, quell'antilingua del brigadiere, e lui dice a un certo punto: l'antilingua è quella di chi deve dire ho effettuato perché non sa dire fatto. Ecco, questa frase mi è venuta in mente quando qualche tempo fa dal salumiere mi sono trovato di fronte a un cartello che recitava «Non si effettuano panini». La vera competenza della lingua si vede quando ci si riesce a muovere dal livello più alto a quello più basso a seconda della situazione, dell'interlocutore, dell'argomento. Quindi l'italiano perfetto non esiste, ma esiste un perfetto italiano per ogni situazione. Proprio così. Giuseppe Antonelli, Un italiano vero, Rizzoli. E sai che a proposito di lingua, l'italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo dopo l'inglese, lo spagnolo e il cinese. E io non lo sapevo, grazie. Ecco, te lo dico. Ma in più c'è un altro dato importantissimo. Nell'ultimo anno sono più di 2 milioni gli studenti stranieri che hanno scelto l'italiano. Quindi tu mi dici, non stare lì che cerchi di scegliere per figlia, figli, italiano, francese, spagnolo, inglese. Cinese, eccetera. Rimani basica. Brava, rimani basica, cerchiamo di non complicarcela ulteriormente. Quindi, mamme e smamme, facciamola semplice. I bambini, prima di tutto, devono imparare l'italiano. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Mamme, non stiamo a cervellarci. Ma lo sai che sembri un po' l'arrotino quando parti con mamme, smamme, è arrivata mamma. Ricomincio? Mamme, smamme, meglio così, un po' più dolce. Così mi piace molto. Andiamo al punto. Fermo restando che le lingue straniere sono fondamentali e bisogna saperle. Però prima di tutto, insegniamogli l'italiano. Ci sono tantissime app che fanno questo, ma ce n'è una in particolare che è per i più piccoli, per i bambini tra i 2 o 3 anni, che si chiama l'ABC degli animali. E attraverso delle immagini di animali loro iniziano a leggere leggendo le sillabe, tipo pavone. Come me lo sillabi? Pavone. Bravissimo. Questo? Bravo. Ma non è un po' presto 2 o 3 anni? Sì, però insomma è presto, però è meglio tardi che prima, meglio tardi che poi, meglio prima che poi, non c'erano più le mezze stagioni. Com'è che si dice? Così, che è meglio piuttosto che lasciarli davanti all'iPad a vedere immagini e far nulla, sillabiamo. Sillabiamo, esatto. Sillabiamo, sillabate. Esatto. Mi sillabi, pif. È difficilissima perché è un'unica sillaba. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Tanto io lo sapevo che c'era qualche fregatura in questo festival del cinema di Roma, lo sapevo. Ma Donatella, ma dove? Ma quale fregatura? Che dice? Sì, tu mi hai mandato in un ufficio a chiedere l'addebito per entrare. No, quindi... Donatella, io l'ho mandata a chiedere l'accredito. È uguale. No. E io sono andata e ho detto, sono Donatella della radio. E quelli hanno detto... Quale radio? Strano. Hai capito? E io che ne so che ci sono altre Donatelle e altre radio che fanno il cinema. Vabbè, Donatella, mi scusi, ma lei non penserà veramente di essere l'unica? Sì. Come si chiama questa radio? Qua, questa. Non ci credo. Donatella, lei ha una rubrica a Mix 24 in onda su Radio 24. Ah, bello, grazie. Adesso mi ecco, dici, ecco, prego, ma scusi, lei intanto com'è riuscita a entrare allora? E ho scavalcato. Bravo. E mi sono pure rotta le calze. E per vedere un film... che mi è piaciuto, che parla di guerra e di amore, e infatti si chiama In guerra per amore. Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano, è fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso. Are you sure you guys want to be dangerous? Hai capito? C'è questo Arturo, che è un siciliano trapiantizzato in America. Trapiantato. Ed è innamorato di questa tipa che però è siciliana. E già l'hanno promessa ad un altro, che è uno che non ci si scherza. Allora, questo suo innamorato cosa decide di fare? Va direttamente a chiedere la mano al padre in Sicilia. E quindi per comodità, visto che tanto gli americani devono andare lì per la guerra, si arruola. No, io non ho capito, scusi, come si arruola per comodità? Che non, dici? Non mi devi interrompere. Ma non ho capito. Fammi finire. E allora, quando arrivo in Sicilia, succedono un sacco di cose, anche di commozione, hai capito? Ma non mi dica che si è commossa, Donatella. Senti, stai certa che pure se mi commuovo non lo vengo certo a dire a te. Vabbè, mi dica qualcosa allora, mi dica il cast. C'è questo qui. Chi? Che si chiama come le patatine, Puff. Ma no, si chiama Piff. È uguale. No. È una cosa strana. Forse perché è un soprannome, lui si chiama Pierfrancesco Di Liberto ed è detto Piff. Ma senta, ci dica se vale la pena vedere In guerra per amore di Piff con Miriam Leone e Andrea Di Stefano. Sì, perché è sentimenti di commozione, di guerra, di pace, di Sicilia, di americani. Di grazie, Donatella. Ti prego, come hai detto che si chiama? Di preciso questa radio? Oh, i giorni d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I giovani d'oggi valgono tanto, soprattutto quando si parla di start-up. Dal 2012 ad oggi le start-up italiane sono cresciute al ritmo di 140-150 al mese, circa 5 al giorno, ma di queste purtroppo la metà non supera il primo anno di vita. Andrea Despirt, veneziano, 27 anni, ha fondato 3 anni e mezzo fa jobyourlife.com, un portale che incrocia domanda e offerta di lavoro. Ecco Andrea, prima di spiegarci come funziona la tua startup, perché in Italia una su 1000 ce la fa? Allora, partiamo sicuramente dal presupposto che non solamente in Italia le startup falliscono, ma falliscono anche all'estero, quindi questo è un dato di fatto. Se vogliamo guardare quello che secondo me è il punto principale, oltre a tanti altri fattori che possono essere la cattiva execution magari dei fondatori per l'inesperienza o il fatto che comunque a livello burocratico bisognerebbe fare molto di più, sicuramente la questione dei soldi rimane primaria, cioè come recupero il capitale per far andare avanti la mia startup. Ecco, tu come hai fatto e con quanti soldi sei partito? Io sono partito con il mio capitale iniziale, con 10.000 euro circa, che ci ha permesso di fare il piccolo passo avanti a livello di tecnologia, ma molto molto piccolo. Quanto sono durati i 10.000 euro? Circa 4 mesi. In quei mesi mi sono messo giorno e notte a cercare investitori. Ho trovato il primo che ha creduto, ovviamente dopo varie porte in faccia, che ha creduto in Job Your Life e poi mi ha aiutato a trovare anche gli altri. Quindi in totale ad oggi quanti soldi hai raccolto? In totale in 3 round abbiamo fatto 1.800.000 euro. Sono tanti o sono pochi? Per l'Italia sono tanti, devo dire. Per l'estero sono pochissimi. In America si parla 4-5 milioni di euro. Jobyourlife.com è un portale che incrocia domanda e offerta di lavoro, ma lo fa in modo diverso dagli altri portali. In Jobyourlife ci si iscrive a un network professionale molto giovane e dinamico, dove si possono incontrare altri professionisti oppure altre persone con gli stessi interessi. E dall'altra parte noi abbiamo fatto un portale per le aziende che automatizza molto il modo di ricercare le figure più adatte alle esigenze, e quindi le persone iscritte ricevono direttamente dalle aziende proposte di colloquio, quindi so che se mi contatta l'azienda in Job Your Life è interessata e io posso accettare o rifiutare. Senti, a quanti utenti siete arrivati e quante sono le aziende iscritte? Allora, abbiamo superato il 1 milione di utenti iscritti e abbiamo circa 4.000 aziende iscritte a Job Your Life. Tutte italiane? In questo momento sì, tutte italiane, ma abbiamo, diciamo, intenzione di espanderci all'estero, in questo caso in Spagna. Quanto costa iscriversi a Job Your Life? Allora, per un utente è assolutamente gratuito. Noi guadagniamo dalle aziende che si possono iscrivere a Job Your Life attraverso degli abbonamenti. Diciamo che l'abbonamento minimo a cui un'azienda può appunto aderire sono 199 euro al mese. Quali sono i profili che vengono più richiesti? In questo momento si cercano tanti programmatori, tanti social media specialist, tanti marketing specialist, insomma persone che con l'online ci sono nati e lo sanno usare molto bene. Quindi secondo te è vero o non è vero che non c'è lavoro in Italia per i giovani? Non è vero, le opportunità ci sono, bisogna sapersi proporre, è aumentata la competitività, quindi bisogna anche sapersi far notare dalle aziende. Senti, Job Your Life è un esempio di startup che è riuscita a superare la criticità del primo anno, che è quello più difficile. Ecco, se dovessi dare un consiglio a chi vuole aprirne una, cosa gli diresti? Di concentrarsi tantissimo sul fatto se del prodotto che ha pensato, che ha creato, c'è una vera necessità. E poi seconda cosa, assolutamente consiglio di andare a visitare questo sito che è un po' il cimitero delle startup, quindi si chiama autopsy.io, dove all'interno si trovano appunto tutte le startup fallite, nonché anche quelle americane, dove si vedono soprattutto i motivi per cui sono fallite. Quindi questo è un buonissimo esercizio secondo me da guardare per prevenire eventuali errori. Cravetto, dimmi. Ma lo sai che hai ragione? Perché imparare dai nostri sbagli, ripartire, anzi partire da quello che non ha funzionato, sembra banale, ma non lo è per niente. Brava. Sei molto saggia oggi. È vero? Tu, per esempio, cosa hai imparato dai tuoi sbagli? Hai imparato un sacco di cose. Vabbè, ma acidissima oggi, yogurt puro. C'è Saturno contro? Può darsi. La TV diceva è arrivato Franco Schipani. Ciao Franco. Che ciao cantava. Ale, che ciao cantava. Ale, ci siete entrato ballando questa mattina. Bravo, che bel Franco. Pezzo, grazie. Franco, noi qui ci stavamo chiedendo, ma secondo te quando noi siamo al telefono o in generale un po' nelle relazioni, ci trovi acide? Con gli uomini. Io vi devo ringraziare, per perché sentendo domanda. Le vostre telefonate mi convincete sempre di più che è meglio rimanere singolo. Sono terrorizzato. Ecco, lo vedi Cravetto? Alla non faccia dell'acido, Franco. Vado a comprarti uno yogurt, magari alla fragola che è un po' più dolce. Dolcissimo. Grazie. Franco, invece io e te da soli adesso andiamo. Cosa nel facciamo? 1983, che sarà un grandissimo anno. Restate in ascolto perché ne sentirete veramente di tutte. E allora restate con noi nel 1983 perché Franco Schipani ve ne dirà di tutte subito dopo la pubblicità.